Il consueto benvenuto, buona serata a tutti gli amici ascoltatori di Hard & Heavy, ascoltatori in genere di Rock FM, la voce di Marco Garavelli con voi, come ogni sera, dal lunedì al venerdì 2021, con il nostro spazio dedicato all'hard rock, metal, thrash, speed e tutti i vari sottogeneri di questo grandissimo mondo che è appunto l'hard rock e l'heavy metal. Come sempre noi andiamo a ringraziare in primis voi, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché il mio personalissimo autore Simone, che ringrazio ancora una volta per aver preparato la puntata di questa sera, puntata che come sempre nella prima parte verte su grande o piccole band legate al passato e poi ci dedicheremo alle novità, mentre domani sera nella seconda parte incontreremo cantante femminile che è Morena e il batterista dei Macbeth. Ma dedichiamoci alla puntata di questa sera. Apriamo con i Dokken, band americana creata nel 1978. Album d'esordio dal titolo Breaking the Chains arriva nel 1983, che gli diede da subito un buon successo in Europa. Ed è grazie al secondo Tooth & Nail che la notorietà arriva anche negli States, confermata dal successivo Under Lock & Key. Siamo nel 1985, questo gli valse un tour di spalla ai Judas Priest in America ed in Inghilterra. Ancora da dire che il quarto album, Back for the Attack, fu l'album più venduto della loro storia, raggiunse la 13ª posizione nelle charts di Billboard in America. Successivamente i vari musicisti si dedicarono a progetti solisti e ai Dokken, diciamo così, la denominazione Dokken venne messa da parte. La reunion arriva nel 1993 e con il quinto album, che esce due anni dopo, 1995. Seguono ancora alcuni cambi di line-up e da segnalare anche gli ingressi del chitarrista Reb Bech dei Winger, sostituito a sua volta da John Norum degli Europe, con il quale incidono Long Way Home, ed in seguito anche lui lascerà il gruppo per la reunion degli Europe. L'ultima uscita è avvenuta lo scorso marzo con un live album dal titolo From Conception Live 1981. Il prossimo nuovo album in studio invece si intitolerà The Lightning Strikes Again. Sarà pubblicato dalla Frontiers Record. Nella lineup avremo Don Dokken alla voce, alla chitarra Lex Warlock John Levin, al basso Barry Sparks, che ha lavorato anche con Malmsteen, e alla batteria Mick Brown. Dall'album Under Lock and Key, che arrivò al numero 32 in America, andiamo ad ascoltare un brano che si intitola It's Not Love, Dokken. Dal loro album intitolato Under Lock and Key, dove troviamo vari singoli, pezzi che abbiamo anche in rotazione come In My Dreams oppure Unchained the Night, questa era It's Not Love, la formazione naturalmente quella dei Dokken. Con loro abbiamo aperto il nostro capitolo musicale di questa sera, lasciamo l'America e andiamo in Germania. Siamo negli anni 80 e la band è quella dei Sinner, il cui leader è il cantante bassista Matt Sinner, vero nome Matthias Lasch, che negli ultimi anni ha visto accrescere la sua popolarità grazie alla sua militanza nei Primal Fear di Ralph Shippers. Ad ogni modo, i Sinner sono una band parallela a quella dei Primal Fear, sono attivi ancora oggi, il loro ultimo album Mask of Sanity è uscito addirittura nel gennaio di un anno fa. Per quanto riguarda la storia, i Sinner nascono nell'82 con l'album Wild and Evil e la band ha avuto una certa notorietà sino alla fine degli anni 80. Poi, dopo la pubblicazione del sesto album Dangerous Charm nell'87, il gruppo prende una pausa per tornare 5 anni dopo con un nuovo album, al quale ne seguirono poi moltissimi altri. Una decina di giorni fa la band ha reso noto che il prossimo album in studio si intitolerà Crash and Burn e verrà pubblicato per settembre del 2008, quindi questo quest'annata. Andiamo invece ad un lavoro del 1985, uno dei primi album, Touch of Sin, abbastanza famoso. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Emerald e nel 1999 la JUC, come etichetta discografica, ha pubblicato anche un doppio best of con il titolo di questa canzone. Il pezzo appunto si intitola Emerald, loro sono i Sinner. We'll be right back. Dai tedeschi Sinner, l'album si intitola Touch of Sin, siamo nel 1985, il pezzo era Emerald, ad un album uscito invece alla fine del mese di ottobre dello scorso anno, album d'esordio per questa prog heavy metal band italiana che si chiama Pathos Ray, composta da 5 elementi che suonerà il prossimo settembre al Prog Power Festival di Atlanta, un festival molto importante e molto famoso. Gruppo nasce nel 2000 con la denominazione di NDA, con il quale hanno inciso un demo nel 2001. L'anno seguente cambiano il nome nell'attuale Pathos Ray. Seguono diversi anni durante i quali suonano numerosi concerti, per arrivare poi al 2006, quando hanno registrato un nuovo demo e soprattutto questo album che porta come titolo il loro nome. Dopo aver ottenuto un contratto con la Sensory Records per rendere migliore il sound del lavoro, che era stato registrato qua in Italia, il tutto viene mixato e masterizzato dall'esperto Tommy Jensen presso i suoi studi personali in Danimarca, cioè i Jailhouse Studio, e il risultato è direi ottimo. Anche per la copertina si sono affidati ad un esperto, cioè Mattias Nören, che ha già lavorato per Camelot, Aerion e Devil Grey. Dall'album d'esordio per i Pathos Ray andiamo ad ascoltare Strange Kind of Energy. We'll be right back. decisamente un album molto valido, un album che arriva dall'Italia. Questa è la formazione, lo ricordo, dei Pathos Ray, con il mixaggio e la masterizzazione affidata a Tommy Jensen in Danimarca. Strange Kind of Energy, il titolo del brano, lavoro che potete trovare facilmente, uscito l'ottobre del 2007 nei negozi. Andiamo invece indietro un po' nel tempo e, quando possiamo, sia io che Simone, ben volentieri vi accontentiamo. Questa è in effetti una band che mi è stata richiesta con quest'album, con questa canzone, quindi spero che l'ascoltatore sia all'ascolto. Naturalmente potete inviare messaggi a marco@radiorockfm.com come mail. Ricordo anche che tramite il nostro sito www.radiorockfm.com andate in archivio programmi, trovate tutti gli appuntamenti delle scorse settimane di Hard and Heavy. Il gruppo che prendiamo in considerazione, che mi è stato richiesto, sono i Crocus, storica hard rock band svizzera ancora attiva e che ha riscosso un ottimo successo negli anni 80. Il gruppo nasce comunque nel 74, l'esordio arriva nel 76. All'inizio suonavano un hard rock progressivo, ma subito dopo optarono per cambiare a favore di un hard rock che stava andando, diciamo così, di moda all'epoca. Già con il terzo album cominciarono a farsi conoscere soprattutto in Svizzera. Importante nel 79 l'ingresso del bravo cantante Mark Storace, proveniente dagli Easy Money, e il conseguente passaggio al basso di Forer, che fino all'epoca era stato il cantante. Il successo arriva nell'80 con l'album Metal Rendezvous. Vanno in tour con Ted Nugent, Rainbow, AC/DC, Sammy Hagar. Il loro sound è molto vicino a quello degli AC/DC. Settimo album, forse il più importante, Headhunter, che vedeva il sound più pesante rispetto al passato e si rivelò essere il loro album più riuscito e venduto. Tutto sembra andar bene quando il cambio della moda a favore di un rock più melodico, anche loro cercano di seguire questo, perdono quindi credibilità e consenso. Il gruppo si scioglie e per riformarsi nel 1990 con la pubblicazione di un nuovo album. Seguono alcuni album ben accolti in patria, tanto che l'ultimo, Hellraiser, è arrivato al numero 2. Allora, mi è stato richiesto questo brano in particolar modo, Bedside Radio, che era anche un singolo. L'album è Metal Rendezvous. Questi sono i Crocus. Rock and roll sulla stampo e il sound degli AC/DC, molto melodico in questo singolo Bedside Radio, motivo richiesto appunto da un nostro ascoltatore legato all'album Metal Rendezvous, la formazione quella dei Crocus. Chiudiamo la prima parte, quindi diciamo gli allacci al passato, con una nota thrash metal band americana, quella dei Sacred Reich, che ha avuto un buon seguito nella seconda metà degli anni 80 e che dal 2006 sono di nuovo attivi. Il gruppo nasce nell'85, composto da quattro elementi, uno dei quali, Dave McLean, è noto per essere il batterista di Machine Head. Grazie ad un demo partecipano alla compilation Metal Massacre volume 7 della Metal Blade, con la quale stipulano un contratto. Arriva nell'87 Ignorance, il loro album d'esordio, seguono due EP e date di spalla ai Motorhead, Forbidden e alla partecipazione del Dynamo Festival olandese. Il secondo album, The American Way, arriva nel 90 e gli valse date di spalla a Pantera e Venom. Nel 95 il batterista McLean lascia la band per entrare nei Machine Head. Al suo posto entra Greg Hall, che in seguito avrebbe suonato anche nei Soulfly. Con lui pubblicano altri due album, l'ultimo è Hill del 1996. La band poi si scioglie e si riforma 10 anni dopo, 2006, con la lineup degli ultimi due album. Dal loro album d'esordio, uscito tramite Metal Blade, con Dave McCain alla batteria, l'album si intitola Ignorance. Ascoltiamo Death Squad, Sacred Reich.

È iniziata la seconda parte di Arden Devi per questa serata con una novità dopo aver chiuso con i Sacred Reich la prima parte. Loro sono svedesi, avremo modo di seguire ora tre band svedesi, tre proposte differenti. Quella che avete sentito si intitolava Falling Rain, un estratto dal secondo album in studio per questa band svedese chiamata Crash Diet, creata nel 2000 dal cantante e chitarrista Dave Leppard, che poi si suicidò purtroppo il 20 gennaio del 2006. Il loro esordio arriva nel 2005 con l'album Rest in Sleaze, che gli aveva dato una buona notorietà in Svezia. Arrivarono addirittura al numero 12 nelle charts svedesi. A causa della scomparsa del leader Dave, la band si sciolse per qualche mese, sino all'annuncio di voler continuare l'attività. Il nuovo cantante scelto è il finlandese Oliver Twisted. Questo secondo album si intitola The Unattractive Revolution. Si compone di 11 brani, due dei quali in questi due brani compare come special guest Mick Mars dei Motley Crue. La band inoltre lo scorso weekend ha ottenuto con questo album uno Swedish Metal Award nella categoria miglior band sleaze glam rock, e in effetti questo è il loro sound. Abbandoniamo i Crash Diet per la prossima band, vi dicevo, ancora svedesi. Qui siamo nel settore del heavy metal, creati dall'ex bassista degli Arch Enemy, Martin Bengtsson, con i quali ha inciso il loro secondo album Stigmata del 1998, oltre ad aver suonato nel primo album degli Armageddon nel 97. Per quanto riguarda questo gruppo, che si chiama Lackery, risalgono al 2004, quando Martin creò la band, ma al contrario di quanto faceva negli Arch Enemy, qui canta e suona la chitarra. Il resto della formazione è completato da chitarrista, bassista, entrambi ex Moonlight, e dal batterista dei Dragon Throne. Registrano due demo e grazie al secondo che hanno ottenuto un contratto con la Metal Heaven, che ne pubblica questo album che si intitola Violator. Ci sono 11 brani, oggi vi propongo Your Fate. We'll be right back. Dopo i Crash Diet dalla Svezia con il loro sleazy glam rock, Lackery con il loro classico heavy metal, la prossima band invece ancora dalla Svezia ma con dell'ottimo doom metal. Sono in quattro, si chiamano Isole, uscirà questa settimana il loro terzo album. Nella storia di questa band, all'inizio nel 90 si chiamavano in un altro modo, Forlorn, e con questo moniker hanno pubblicato solo alcuni demo per poi mettere da parte il tutto, e questo nel 90. Ben 13 anni dopo, nel 2003, un'etichetta li ha contattati per pubblicarne un album. Visto che era passato molto tempo, decidono di ricominciare con un nuovo nome e viene scelto appunto l'attuale Isole. Il loro debutto arriva nel 2005 con Forevermore, seguito nel 2006 da Throne of Void. Grazie a questi due album hanno ottenuto un contratto con la Napalm Records, che pubblica questo nuovo terzo lavoro, Bliss of Solitude, che così come i precedenti si compone di 7 tracce dalla durata media di ogni canzone di 7 minuti. Noi andiamo ad ascoltare un estratto, appunto, la traccia è la numero 6, si intitola Dying, ne ascoltiamo una parte per questa doom metal band svedese chiamata Isole. Immancabile anche questa sera l'appuntamento con le Metal News. Partiamo con i Camelot. Scelto il terzo gruppo supporto oltre ai Farwind. Si tratta degli spagnoli Forever Slave, interessante gothic metal band dal cantato femminile ad opera dell'affascinante Lady Angelica, con alcuni inserti cantati in gutturale e solo con un album alle spalle pubblicato nel 2005. Ricordiamo che il tour li porterà quindi con Farwind, Forever Slave e Camelot il 13 aprile all'Alcatraz di Milano. Altro festival in Italia, arriverà sabato 12 luglio, questa volta l'Evolution Festival si sposta da Firenze a Milano all'Idroscalo. La giornata scelta, dicevo, è il sabato 12 luglio, le prime ben confermate sono novembre, Pain of Salvation, Gamma Ray, Opeth e In Flames, questo l'Evolution Festival. Iron Maiden, scherzi un po' del destino. Il prossimo 15 febbraio Bruce Dickinson, che è anche un DJ, ha un suo programma radiofonico, intervisterà l'ex cantante degli Iron Maiden, Blaze Bayley, che aveva preso il suo posto dal 94 al 98. La band toscana degli Eldritch ha comunicato che registrerà il primo DVD dal vivo. Lo show scelto è quello sarà quello del 22 marzo presso il Music Street Club di Lugnano, in provincia di Pisa. Durante il concerto saranno presenti inoltre diversi ospiti, tra i quali vecchi membri della band. Sabaton, la power metal band svedese che ha sabato scorso vinto lo Swedish Metal Award come miglior band heavy power metal, ha comunicato che questo mese le registrazioni del nuovo album, che si intitolerà The Art of War, e la produzione curata da Peter Tagtrin dei Pain e Hypocrisy. La data d'uscita è prevista per il 30 di maggio del 2008. Inoltre la band ha completato i lavori per il primo DVD dal vivo, ancora ignota però la data di pubblicazione. E parliamo del grande Pino Scotto, grosso progetto in arrivo. Il titolo del suo prossimo album, per i cantanti degli storici Vanadium e Fire Trails, sarà Datevi Fuoco, lo scotto da pagare. Sono 12 canzoni che sono i brani migliori tratti dalla carriera solista di Pino Scotto, riarrangiati in chiave moderna, con tantissimi ospiti. Ogni canzone ha un ospite. Bud e Dario Cappanera della Strana Officina, Enrico Ruggeri, il Fabio Treves, nonché DJ anche del nostro spazio Blues Express, Tommy Massare e GL Pedrotti degli Extrema, Morbi dei Domine, Pier Gonnella e Roberto Tiranti dei Labyrinth, Trevor dei Sadist, Saturnino e Mario Riso dei Rezophonic. Inoltre, oltre all'album, ci sarà un booklet che è veramente l'autobiografia ufficiale di Pino. Sono 200 pagine di booklet, un vero e proprio libro. Uscita prevista per fine febbraio. Rimaniamo in Italia con i Dark Light. Questo è il nome della nuova band creata dal chitarrista degli Arachnes, Franco Caruso. Musicalmente questa volta si va verso un metal tra il gotico e medievale. Frank si occupa di tutti gli strumenti oltre alle parti vocali maschili. Per le parti vocali femminili c'è Paola Baldacci. L'album si intitola Light from the Dark. 12 saranno i motivi, i brani. Uscita prevista 27 febbraio per Self, etichetta Self. Da questo lavoro, appunto Dark Light, Light from the Dark, andiamo ad ascoltare il brano numero 3, che si intitola Like a Leader. Abbiamo ritrovato quindi il nuovo progetto di Franco Caruso degli Arachnes. Dark Light è il nome di questo progetto. Light from the Dark, il titolo dell'album. Avenged Sevenfold, questo è il nome della band californiana. Il loro nuovo album porta semplicemente il loro nome. Gruppo composto da 5 elementi, buon successo hanno riscosso anche con il precedente City of Evil. Gruppo nato nel 99 dal cantante Metilu Shadows, che ha esordito nel 2001 con l'album Sounding the Seventh Trumpet. La notorietà è arrivata con il terzo lavoro del 2005, che gli ha permesso di andare in tour di spalla ai Metallica, oltre alla vincita di un MTV Award come miglior nuova band. Questo nuovo album presenta 10 tracce, la band inoltre è stata scelta dagli Iron Maiden come supporto per molte date del tour, e in effetti anche gli Avenged Sevenfold suoneranno al Gods of Metal nella giornata del 27 giugno in quel di Bologna. Oggi li andiamo a proporre da questo nuovo album con il brano intitolato Scream. Life left bare. E con le note di Scream dal nuovo lavoro degli Avenged Sevenfold che Marco Gravelli vi saluta, si congeda da voi per questo nostro primo appuntamento della settimana serale dalle 20 alle 21 con Arden Devi. Un grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Grazie all'autore Simone, grazie soprattutto a voi. Appuntamento rinnovato a domani sera, quando troveremo nella seconda parte l'intervista insieme ai Macbeth. Ciao ciao!